About Cult, il programma di aboutbologna.it condotto da Silvia Santachiara e Valentina Fabbri. Gli artisti della scena musicale contemporanea si raccontano. 25 minuti di immagini, testi e storie. Ciao a tutti, siamo tornate con una nuova puntata di About Cult, il programma in cui ogni volta un protagonista della scena musicale contemporanea si racconta in 25 minuti. Ciao Silvietta. Ciao Valona. Questa volta siamo state in trasferta Marina di Ravenna per raggiungere Dace Nazari, che era all'Anabi, dove ha fatto insieme a Luca Paternello un DJ set in spiaggia. Quali sono le canzoni che sono state suonate? Non delle canzoni qualunque. Quelle che si sono ascoltate in furgone durante migliaia di chilometri che hanno percorso nel tour europeo e ovviamente alcuni brani del loro repertorio. Alla fine di questo DJ set, che hanno definito ironicamente semiserio, l'abbiamo intervistato e gli abbiamo fatto anche qualche scatto davanti al famoso furgone che era parcheggiato sulla sabbia proprio davanti all'Anabi. A novembre 2018 ha lanciato Ce lo chiede l'Europa, poi quest'estate sono usciti 3 nuovi singoli. Ma prima di ascoltare l'intervista vi facciamo sentire Calma le onde, il singolo che ha anticipato l'uscita dell'album. In senso lato la vita è un lungo cammino in salita, la strada sembra infinita ma farò meno fatica se la vivo come una gita. Pronto ogni imprevisto, mi sembreranno più chiare poi cose che ora non capisco. La conoscenza totale dagli atomi fino ai sistemi solari, per molti è difficile da riportare entro schemi normali. Persone bombardate da mille notizie che viaggiano grazie a sistemi binari, sono come i treni che rischiano di deragliare se non gli sistemi binari. La democrazia è una parola, la realtà spesso è diversa, come un anziano che continua a chiamare stalla quella che ormai è una rimessa. Come una finta promessa, come le cose al gusto di, che però poi non hanno quel gusto lì, tipo il tè alla pesca che non sa di pesca. E se cerchi la protesta nelle classifiche attuali, rischi di trovare solo la rassegnazione sommessa di giovani e anziani. Ieri cantavi Contessa in piazza durante i cortei popolari, oggi se canti Contessa probabilmente si tratta di un pezzo dei cani. L'economia è un movimento oscillante, ogni tanto dà un contraccolpo, come un barcone nel mare con 300 persone a bordo. Qualcuno strilla chiudete il porto, intanto suo figlio in un aeroporto, e in una mano un biglietto di sola andata per Toronto e nell'altra un passaporto. La domenica mattina i paesani si radunano nelle chiese e quando la messa è finita si fa aperitivo nel bar del paese. Il proprietario è un tipo cortese, fa gli spritz e i tramezzini, tonno e maionese, e parla in dialetto però con accento cinese. Poi cala il sole, calma le onde, mi vesto ed esco un po' fuori di me e un po' mi isolo e penso che non ci sia nessuno all'infuori di me, che a volte mi fisso un po' troppo su cose anche stupide, vado un po' fuori di me ed ho pensieri che so solo io e che non devono uscire mai fuori. Poi cala il sole, calma le onde, mi vesto ed esco un po' fuori di me e un po' mi isolo e penso che non ci sia nessuno all'infuori di me, che a volte mi fisso un po' troppo su cose anche stupide, vado un po' fuori di me ed ho pensieri che so solo io e che non devono uscire mai fuori. Siamo qui con Dace Nazari, Ce lo chiede l'Europa, è il suo secondo disco uscito a novembre del 2018. Che cosa ci chiede l'Europa? Ce lo chiede l'Europa è una frase fatta, utilizzata da soprattutto i politici al governo negli ultimi 10 anni, spesso per giustificare scelte impopolari scaricando il barile, l'austerity, il taglio delle pensioni, il taglio della sanità, il taglio della scuola pubblica e cose del genere, e spesso anche mentendo, ed è un po' quindi un simbolo di tante cose. In realtà ho scelto questo titolo qui perché ci sono diversi layers, si dice in inglese, diversi strati di interpretazione, e è una cosa che parla di Europa, e l'Europa secondo me è un po' il tema del nostro tempo, e quindi mi piaceva questa cosa qui. Dall'altro però c'è anche molta ironia, il titolo sembra molto politico, poi se vai a vedere la canzone è una canzone d'amore, esattamente la canzone in cui è contenuta quella frase lì, in realtà è una vaccata, cioè è il tentativo cacciarone di un ragazzo di convincere la propria amata a stare con lui, con un'argomentazione che non sta né in cielo né in terra. Che ci faccio qua, chiuso fuori, a chiedermi perché ogni macchina che uso fuori, con in mano un aeroplano di carta, illuso voli a non fidarmi più di nessuno, incluso noi. Che ci si dice un sacco di bugie e si sprecano un sacco di energie a fingersi migliori di ciò che si è. E si è. Eh sì, ma tu resta qui e stringimi forte a te come fai solo tu. È l'Europa che ce lo chiede. Che poi quando sto con te sono più lucido e produco di più, perciò lo vedi anche tu. Che è l'Europa che ce lo chiede. Per me, a parte tutto, le tue attenzioni sono fiori di cui l'arte è il frutto. Quando provo come un blocco e non trovo soluzioni, tra la parte e il tutto, arrivi tu e riparte tutto. E sai, chi punta su di me non va molto lontano, che del cavallo vincente c'ho solo il nome strano, che quando mi presento la gente pensa che sia toscano, oppure chiede in realtà come mi chiamo. Ma tu resta qui e stringimi forte a te come fai solo tu. È l'Europa che ce lo chiede. Che poi quando sto con te sono più lucido e produco di più, perciò lo vedi anche tu. Che è l'Europa che ce lo chiede. E per me, più passa il tempo, più smette di essere un passatempo e inizia ad essere una rapina, e io un registratore di cassa aperto. Ci si dice un sacco di bugie e si sprecano un sacco di energie a fingersi migliori di ciò che si è. E si è, e si è. Ma tu resta qui e stringimi forte a te come fai solo tu. È l'Europa che ce lo chiede. Perché quando sto con te sono più lucido e produco di più, perciò lo vedi anche tu. Che è l'Europa che ce lo chiede. Oh oh. E ci si dice un sacco di bugie e si sprecano un sacco di energie, ma è l'Europa che ce lo chiede. Hai mescolato insieme cantautorato, rap, elettronica, poetry slam. Questa scelta secondo te è ancora guardata con sospetto in Italia? Cioè siamo già in grado di abbattere in qualche modo etichette e confini? Ma se c'è un periodo è questo, perché proprio i generi musicali si stanno eclissando e sta diventando tutto quanto un grosso genere. Detto così suona male, a volte è un male, nel senso che la ricerca di un'identità musicale è una cosa bella, però è anche bello appunto l'altro aspetto, cioè l'aspetto dell'abbattimento dei pregiudizi. E secondo me è una cosa che è già successa. Io, quando rispondevo a questo tipo di domande qui 4 anni fa, ancora stavo auspicando che succedesse. Oggi ci sono persone che erano rappers e che poi hanno cantato e poi hanno rappato di nuovo, e sto pensando a infiniti nomi: Franco, 126, Carl Brave, Willy Peyote, Fra Quintale, e tutta una scuola che poi è la mia generazione di cantautorato barra rap che di fatto ha abbattuto questi confini di cui mi parlavi. A proposito di Willy Peyote, hai fatto diversi brani con lui, ma nessuno nell'ultimo disco. Come mai? Perché abbiamo litigato, non ci vogliamo più bene. No, non ci credo. No, non è possibile. Ci vogliamo un sacco di bene. E allora, la risposta ufficiale a questa domanda qui è: in questo disco qui ci piaceva fare il disco, no? Cioè, abbiamo sempre fatto featuring e questo era un momento in cui ci piaceva l'idea di fare le canzoni nostre e proporre la nostra cosa. E in realtà la vera verità è che c'era un pezzo. Io so che c'era ed è rimasto, non è stato buttato via. Esatto, comunque. Cioè lì qualche cosa se ne farà. Comunque appunto con Willy siamo sia molto molto amici, sia abbiamo grossa stima reciproca, e quindi presto o tardi qualcos'altro si farà. Quest'estate sono usciti 3 nuovi brani, tra cui Bravi Tutti, in cui dici: e se non ti saluto è perché ciao vuol dire schiavo, e a volte faccio solamente un gesto con la mano, altre volte non saluto proprio e me ne vado. Vabbè, non te la prendo, ho un carattere un po' strano. Essere sinceri e non conformi sempre alle norme sociali vuol dire essere strani? Beh, essere non conformi alle norme sociali vuol dire essere strani, sì, direi. Poi se la tua domanda è sbagliato essere strani, questa è un'altra domanda, penso di no, anzi a volte penso che sia un po' auspicabile. Poi qua c'è un gioco di parole, una battuta, certo. Poi non so se sai che ciao vuol dire schiavo, è una parola veneta? No, esatto. Siamo di Bologna. È una parola veneta, è veneziana e deriva da sclavus, che voleva dire letteralmente slavo, e si utilizzava quella parola per indicare gli schiavi, perché gli schiavi nella Repubblica di Venezia erano slavi principalmente, e quindi si diceva ciao, che è un po' come dire comandi, cioè come dire sono ai tuoi comandi, sono ai tuoi ordini. Ricorrono spesso i bar nei tuoi testi, non solo in Di Mai Baristi, ma anche in Mirò e in Calma le Onde, si va nel bar del paese. Esatto. E su Instagram hai scritto che ci vai a prelevare idee, ce lo spieghi? Ma in realtà non è molto interpretabile questa cosa. Io fisicamente entro in un bar, mi siedo e scrivo le canzoni. È una cosa che ho fatto da sempre, e ho sempre prediletto un pochettino i bar tristi, insomma i bar. A me l'Amore Povero, che è il nostro primo LP, si doveva chiamare I Bar dei Cinesi, e poi me l'hanno bocciato. Ovviamente quando hai un disco in mano proponi tanti titoli, però io ci tenevo che fosse quella cosa lì. Poi in realtà è diventata un'altra cosa, che però comunque dona quell'immaginario lì. A me quel tipo di luogo, non luogo, mi piace e ispira molto. Il cielo tutto nero, la notte si mangia ogni grattacielo, anime fragili, rimedi forti. Per me questi ombrelli sono tutti rotti, se non servono a volare come Mary Poppins, scommettiamo che c'entro quel cestino. L'unico fatto certo è che incerto il destino, perché a volte chi era l'ultimo diventa il primo, come le corse del tram se fai mattino, e io che pensavo di fare solo un giro. Mi piacciono i bar un po' tristi, andarci di mattina e chiedermi se stanno pensando lo stesso di me, ma ieri mi sono scordato di te, Battista. Se a me piacciono i bar tristi, andarci di mattina e chiedermi se stanno pensando lo stesso di me, ma chissà se ieri sera ti sei scordata di me. Ho pensato qualcosa ma non l'ho detto, ho nascosto la bocca nel colletto. Domando pareri sul da farsi agli oggetti nel mio appartamento. Il detersivo dice che è tardi e devo fare svelto. Il fatto fazzoletti che c'è ancora tempo. Non sento quello che dici, i miei pensieri urlano più forti. La vita è una salita in bici, devo scegliere bene i rapporti. E sto seguendo un'idea ma senza avere un'idea di dove porti. Come quando premo a caso i tasti dei pianoforti e scopro nuovi accordi. Mi piacciono i bar un po' tristi, andarci di mattina e chiedermi se stanno pensando lo stesso di me i baristi. Ieri mi sono scordato di te Battisti. Sai che a me piacciono i bar tristi, andarci di mattina e chiedermi se stanno pensando lo stesso di me i baristi. Chissà se ieri sera ti sei scordata di me. Mi piacciono i bar un po' tristi, con vecchie marche di caffè, entrarci e domandarmi se stanno pensando lo stesso di me i baristi. O che ho finito le parole e ho bisogno di un whisky. Mi piacciono i bar un po' tristi, andarci di mattina e chiedermi se stanno pensando lo stesso di me i baristi. Ieri mi sono scordato di te Battisti. Sai che a me piacciono i bar tristi, andarci di mattina e chiedermi se stanno pensando lo stesso di me i baristi. Chissà se ieri sera ti sei scordata di me. Girasole invece è dedicata a tuo fratello. Io volevo sapere il primo ricordo che hai con lui e l'ultimo. Il primo ricordo che ho con lui, siamo in automobile, stiamo andando a vedere la nuova casa, che è la casa dove adesso abito da, cioè i miei abitano da 28 anni e io ne ho 30. E l'ultimo ricordo che ho con lui è una bellissima cena in campeggio che abbiamo fatto un mese fa con i miei genitori, i nostri genitori e sua figlia a La Feniglia a Orbetello in provincia di Grosseto. Nei tuoi testi ricorre Battisti, lo citi in uno degli ultimi singoli appunto di Mai Baristi, ma c'è anche il brano come Battisti contenuto nell'album precedente. E, volevo sapere, secondo te cosa c'è in te del cantautorato? Non solo le tematiche, spesso tematiche comunque che affrontano il tema dell'amore, forse non solo, è una domanda che faccio a te. Allora, questa è una domanda quasi filosofica, perché cioè, cos'è che siamo se non il prodotto di tutto quello che abbiamo ascoltato, letto, guardato, respirato, etc. E cosa c'è in me del cantautorato? C'è tutto quello che ho ascoltato e ne ho ascoltato molto. È uno dei principali filoni della mia formazione artistica, soprattutto quando ero adolescente, cioè la canzone d'autore italiana e il rap, perché io mi sono avvicinato alla musica attraverso le parole. Mi piaceva molto la scrittura in versi, le rime. Sia in Speculation che in Proemio che in Calma le onde inizi con la stessa frase, esatto. Quindi in senso lato la vita è una truffa ordita da uomini astuti, è una trama condita di intrecci banali, è un lungo cammino in salita. E in senso stretto? Cioè nel quotidiano? Si nasce, si vive, si muore, in senso stretto. No, cito un mio grande maestro, in senso stretto arrivi, stai scomodo e te ne vai. Sai, la vita a volte è dura e non ha senso dell'umorismo. Non basta solo aver fortuna, bisogna avere anche tempismo. Sai, io non chiedo mai le indicazioni, ma prova a leggere quel segnale. C'è scritto tutte le direzioni, che esattamente dove voglio andare. Mi è venuta così tanta fame a fare piani, che sudo con la lingua come i cani. Fumavamo sigarette fuori dai locali, poi se chiudi gli occhi già domani. Scusami, sai leggere le mani. Per la fortuna ci vuole timing, un po' di vernice tra i binari. E tutti questi treni sono quasi quadri. Guardo fuori dalla tua finestra, lentamente il sole che tramonta. Come un vecchio che per prudenza mette bene il piede un gradino alla volta. Non ricordo che volevo dirti, se mi torna in mente poi ti avviso. E se c'è qualche ruga sul mio viso è per tutte le volte che ho sorriso. Hai la ragazza che ti stressa, vuole che vai a vivere con lei. Ma lei per te è un po' come Venezia, anzi, cioè bella. era a tutte le direzioni di Dutch Nazari, che è stato definito un cantautorapper perché mescola insieme cantautorato, rap, elettronica e anche poetry slam. E si avvicina al rap a 16 anni, poi durante gli anni universitari fa due incontri che segnano comunque il suo percorso, che sono il poeta Alessandro Burbank e il producer Luca Paternello. Oggi ha all'attivo due EP, due dischi e diverse collaborazioni, tra cui Willy Peyote e Fra Quintale. Politica, relazioni, l'incertezza in cui nuotiamo ogni giorno sono solo alcuni, insomma, dei temi che affronta Dutch. Mi ha colpito, Valona, fra tutte, una frase che dice: in tasca hai un accendino e un pacchetto di forse e non sai più che cosa ti identifica. Questa, insomma, sicuramente è una frase forte e molto significativa dei nostri tempi, ma anche la differenza fra fortuna e tempismo, che insomma non sono proprio la stessa cosa. No, assolutamente, perché non basta la prima, ci vuole anche la seconda. Se non ci racconti niente, Valona? Ma guarda, io passerei anche questo giro, avrei delle cose da dire, nel senso che il mio tempismo, loro, di quelli che incontro, è sempre sbagliato, cioè non sono mai pronti, hanno sempre qualche pugnetta, si può dire pugnetta in diretta? Non lo so, ma ormai l'abbiamo detta. Ormai l'abbiamo detto, e quindi sì, questo benedetto tempismo non c'è. È un aspetto fondamentale, ma non solo nei confronti degli altri, ma anche di noi stessi. Cioè, possiamo essere noi a non essere nel momento giusto. Magari uno stesso incontro un mese dopo, un mese prima, avrebbe cambiato completamente le sorti della cosa. Quindi sì, insomma, sono d'accordo con Dutch. Giustissimo. Ma da quando è che hai sviluppato tutta questa saggezza? È l'estate che ti ha fatto bene? Da sempre, Valo. Sei saggia da sempre. Anche per oggi il tempo è finito e dobbiamo salutarci, ma dicelo tu, Valora, questo. Continuate naturalmente a seguirci sempre su Radio Città Fujiko. Un bacio a tutti, ciao. Ciao. Ti si riempiono gli occhi con le onde del mare. Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare. Ed io vorrei fare pace, ma lanciamo dei missili. Quanto dobbiamo soffrire prima di un po' d'amore, prima di sorridere un po'. Odio quando mi volti le spalle, te ne vai via di corsa, prendi su la tua borsa e non richiami. E scusa se non ci penso più, ma hai fatto pezzi d'amore, ma adesso non ci casco più. Aspetta dai, se vuoi torniamo insieme, oppure prendi la metro che corre veloce. Ma hai fatto pezzi la voce e adesso non ti parlo più. Ma hai fatto pezzi la voce e adesso non ti parlo più. E adesso non ti parlo più. Non ci servono gli occhi per poterci guardare. E anche se sbaglio le strade, poi ti trovo lo stesso senza navigatore. Tutto bene fin quando non ritorniamo a terra, proprio come dei missili. E aspetto solo l'amore dopo l'esplosione. Ho voglia di sorridere un po'. Amo quando sei sulle mie spalle, perché la vita è corta e se ritorni stavolta non andare. E scusa se non ci penso più, ma hai fatto pezzi d'amore, ma adesso non ci casco più. Aspetta dai, se vuoi torniamo insieme, oppure prendi la metro che corre veloce. Ma hai fatto pezzi la voce e adesso non ti parlo più. Ma hai fatto pezzi la voce e adesso non ti parlo più. Seduto sotto al sole, le strade sono come vene che si intrecciano per arrivarti al cuore. E non mi dire di no, che a te non te ne frega. Che se mi dici che adesso tu non sei più mia, fa paura lo stesso, anche se è una bugia. E scusa se non ci penso più, ma hai fatto pezzi d'amore, ma adesso non ci casco più. Oppure prendi la mano. adesso non ti parlo più.